www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Niente, ieri facendo benzina mi sono dimenticata la pompa. Attaccata. Già. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. Later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce. Mentre nella fabbrica di polli assistiamo a un continuo scambio di realtà parallele, Kappa e Drago ripensano al caso irrisolto del 13° apostolo di Cristo. Ti dico che è così, Drago, devi fidarti. Ma dai, Kappa, servono prove e fonti certe per queste cose. Prove e fonti certe. Tu vuoi una fonte certa? E io te la do. Eccola qui, guarda. Lo vedi? Ebbene, c'è scritto qui. Nella 16ª enciclica dell'antipapa Sigfrido XIII, intitolata Wir müssen den Heiligen Stuhl vernichten, viene indicata chiaramente una priorità. E la priorità sta proprio nel restituire quel che spetta al 13° apostolo a Moghele da Gaborone. Vabbè, ma c'è scritto in questo foglio. Ho capito, però è una fonte certa che insomma... un foglio. Ma si intitola, tradotto in italiano, noi dobbiamo distruggere la Santa Sede. Den Heiligen Stuhl. Ecco, e secondo te in Vaticano ti accolgono bene se ti presenti così? Ma le nozioni di primo di classe. Con il termine antipapa si indica pretendente a papato in contrasto con papa regnante. Non era evidente in periodi in cui esistevano due o tre pretendenti rivali, non era evidente quale fosse antipapa e quale papa. Confusione überall, ma un giorno arrivò antipapa Sigfrido XIII del Svizzera Canton Uri e cose cambiarono. Tutti furono d'accordo che lui era sicuramente antipapa e non papa. Sue opere sono ancora oggi scandalose per Chiesa di Roma. Testi come La Madonna non era vergine, ecco le prove. Oppure I santi sono i cavalieri del lavoro della cristianità. Furono bruciati a Campo dei Fiori nel 1600 insieme di eretico e anarchico Giordano Bruno, da non confondersi con centravanti calciatore Bruno Giordano. Vabbè, dai, Kappa, questo tuo antipapa di riferimento ha delle referenze disastrose, scusa. Sarebbe troppo facile avere un padre della Chiesa dalla nostra parte. A me piace prendere le strade più difficili, Drago, lo sai, eretici, scomunicati, antipapi, anticardinali camerlenghi. Anticosa? Gli anticardinali camerlenghi. Cioè? Come? Gli anticardinali camerlenghi, Drago, sono personaggi che non sono mai diventati molto celebri. Infatti. Sì, ma perché hanno sempre agito nell'ombra più assoluta. Vabbè, ma chi sono? Cioè, gli anticardinali camerlenghi. Ma Drago, lo sai, il cardinale camerlengo è l'amministratore dei beni del Vaticano. Urca! Hai capito perché c'è sempre anche un anticardinale camerlengo? Beh, ci credo. E poi lo sai, no? Il cardinale camerlengo, Drago, svolge il compito di reggere la sede vacante quando il Papa è in viaggio, lo sai, no? Sì, certo. Lo sai? No, però. E lo sai che deve anche convocare il conclave al momento dell'elezione del nuovo Papa, no? Vabbè, stai dicendo tutto questo? Sì, no, lo adesso sai. Lo so, prima. Vabbè, no. Drago, l'anticardinale camerlengo invece regge la antisede quando l'antipapa è in antiviaggio e deve convocare l'anticonclave quando si deve eleggere il nuovo antipapa. Senti, hai capito? Antieleggere, vabbè, sì, ma allora è il famoso Papa Nero, no? Quello di cui si parla sempre ma che nessuno sa chi è. No. Papa Nero è il padre generale dell'ordine dei gesuiti. Un altro. Sì, un altro pezzo grosso. Vabbè, allora ci sono stati anche degli antipapi neri, immagino, perché... Certo che ci sono stati. Drago, c'è un doppione per ogni ruolo della gerarchia ecclesiastica. Un doppione? Ma sì, un doppione che dice di essere stato ingiustamente scavalcato dai concorrenti e che quindi organizza intrighi e colpi di stato per occupare il posto che secondo lui gli spetta, capito? Sì, i sotterranei del Vaticano, come diceva André Gide. E infatti, l'underground Vaticano. Ah. D'altra parte, i cristiani sono stati il primo movimento underground della storia. Pensa al tempo delle catacombe, come i beatnik. Ehi, fratelli. Beh, se vi interessa, c'è la mia nuova poesia dedicata alla Madonna. Ho scritto i primi versi e volevo sapere se vi piaceva. Fa più o meno così, senti, fa. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne. E poi qua, ecco qua, fratello, qua non so come continuare. Benedetto il frutto del seno tuo, Gesù, no? Eh? Gesù. In che senso? Benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Non è male, amico. Sai che la uso adesso? Però magari metto dal tuo seno, al posto del seno tuo. Vabbè, perché? Troppo arcaico? Sì, un po' pesante, cosa dici? Forse sì. Beh, comunque, grazie amico, tu sei ok? Figurati, se non ci sia una mano fra di noi, qui dell'underground cristiano. Hai detto bene, fratello. Dai, tutti insieme. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetto fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Del tuo seno, Gesù. Del tuo seno, Gesù. La fabbrica di polli. Vedi? Il Vaticano ha risposto alla mia tesi su Amoghele, sull'antipapa Silfrido XIII. Mi ha mandato una bella mail, guarda. Sì, e mi dice che no, che non è vero niente, perché in Jesus Christ Superstar c'è Giuda Iscariota, che è un nero. Ebbene? Come Amoghele. Ah. E quindi accusano Amoghele di essere in realtà Giuda e di aver tradito il Signore. Ma come, il Vaticano usa un film hippie per smentire un antipapa? Non so, qui c'è scritto John Vaticano, saranno loro che rispondono. Può darsi, non lo so. La fabbrica di polli si sta espandendo, Drago. Ormai tutto è fabbrica, anche fuori di qui tutto è fabbrica. Non mi stupirei che anche il Vaticano fosse fabbrica. Dai, ma una volta il Vaticano non si pronunciava mai, se non in presenza di documenti inoppugnabili. Adesso si presenta con il film tratto da un'opera rock di Sir Andrew Lloyd Webber. E Tim Rice. Sì, vabbè, non c'era certo Tim Rice a innalzare Jesus Christ Superstar a documento da presentare in una disputa teologica sul XIII apostolo di Cristo. Amoghele, Amoghele, Amoghele. Jesus Christ Superstar. Na na na na na na na na na. Jesus Christ Superstar. Che bello, Jesus Christ Superstar. Anni 70, soldati romani vestiti come Vietnam. Capelli lunghi. E poi c'è Brown Power, però è un'altra roba, è venuta dopo, no? Lì è Jesus Christ, però Superstar. Che Superstar è la parola moderna, no? E poi questo qui non è che solo un film, poi l'ha fatto anche in teatro e cantava in Anghina di Deep Purple, qui anni 70 Jesus Christ era Superstar, Ecco te, adesso c'è la scena della tua crocifissione. Cioè, presente quando prendo una croce e raccolgo i chiodi arrugginiti per terra, un martello, e poi ti paro? Ecco. Che cosa succederà adesso? Nella disputa sul XIII apostolo verrà tirato in ballo anche Franco Zeffirelli per il suo Gesù di Nazareth? E i Monty Python per Brian di Nazareth? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo cristologico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. Thank you.